Allora, comunicazione multimediale, questa è la seconda lezione, mercoledì 14 novembre. Intanto, una prima cosa è se avete delle cose da chiedere dall'altra volta, se avete cose che non avete capito, avete cose che volete approfondire, avete cose, Ormai tutto chiaro. tutto chiaro, Sì. io qua. Che miracolo. Va bene, quindi vado avanti. Cioè, tutte le volte io vorrei che da una volta all'altra, magari la volta. Voi comunque, se avete qualche cosa che non capite, eccetera, interrompetemi anche mentre sto parlando, eh? Non è che questo è un corso, non è una conferenza. Però se vi avete bisogno di farla sedimentare per un giorno o per una settimana, le volte dopo, tutte le volte, potete dirvi, meglio farlo in apertura di lezione, così avete. Quindi tutte le volte sarà così, io vi chiederò, se non c'è niente andiamo avanti, se no no. Allora, dunque oggi volevo cominciare ad affrontare più seriamente il tema del linguaggio. Allora, grosso modo, insomma, diciamo, avete capito che l'asse di questo corso sarà un confronto, un tentativo di integrazione, sistemazione tra la parola e, diciamo, l'immagine. Adesso vediamo da che punto di vista, però, perché già i termini parola, linguaggio da un lato, immagine dall'altro, sono termini ambigui, quindi dobbiamo cercare di capire in quale senso li vogliamo. Adesso per il momento lasciamo un attimo la parte di immagine che entrerà tra qualche lezione, cerchiamo di mettere a punto le cose che ci servono, che ci serve capire, le cose essenziali, insomma, non è che potremmo ovviamente fare un corso di linguistica né di filosofia del linguaggio, insomma. Bello ampio, però insomma, cerchiamo di mettere a punto almeno alcuni concetti che ci servono per poter capire. Allora, prima cosa, per il linguaggio partiremo da un'osservazione che fanno tutti, che però è un'osservazione, ovviamente vedremo subito, che diventa problematica. L'osservazione, l'asserzione che trovate scritta in un sacco di libri, in un sacco di qualsiasi posto andate, schiacciate, fate, digitate linguaggio su Wikipedia o Language o Lang o qualsiasi lingua conosciate per fare un po' di confronto tra le cose, che vi consiglio sempre di fare perché le Wikipedia non sono tutte uguali nelle varie lingue, quindi ci sono sempre. Insomma, una delle prime affermazioni che voi, diciamo, trovate è che il linguaggio è ciò che distingue l'essere umano da tutti gli altri animali, no? Gli esseri umani parlano e nessun altro animale parla. Ovviamente questo non vuol dire che gli esseri umani comunicano e nessun altro animale comunica, tutti gli esseri viventi più o meno comunicano tra loro. Comunicano tra loro, comunicano con l'ambiente, insomma, comunicano, c'è una comunicazione intraspecifica all'interno di una singola specie e a volte anche interspecifica all'interno di specie diverse. Allora, questa cosa è ovviamente problematica perché il problema, insomma, la domanda che sorge appena voi approfondite un attimo questa asserzione che sembra così, no? Generale, dice tutti, nessun altro animale parla tranne l'uomo. È vero, non è una cosa falsa, non è una cosa sbagliata, però, la prima domanda che sorge è questa, ma si tratta di una. Di una differenza quantitativa o di una differenza qualitativa? Cioè, le funzioni che assume il linguaggio nell'essere umano, nella specie, animale, umana, detta Homo sapiens, viene assolto da altre attività, da altri dispositivi all'interno di altri animali? Ci sono attività, anche gli altri animali hanno. Anche se non hanno il linguaggio, hanno qualcosa di affine al linguaggio, qualcosa che si avvicina al linguaggio, qualcosa che. Prima cosa. La seconda cosa è, la seconda possibile domanda è ancora più impegnativa, ancora più ardua ovviamente da, diciamo, rispondere, e probabilmente non è possibile rispondere sulla base di pure e semplici osservazioni. Occorre fare, come dire, non diciamo un atto di fede, ma insomma prendere delle decisioni metodologiche di per sé non totalmente argomentabili su base empirica. Non so se mi sono spiegato. Cioè, bisogna decidere quale punto di vista assumere, perché è una, diciamo, questione di per sé, in qualche maniera dal punto di vista empirico, che non si può dirimere, che non si può, se non facendo delle scelte a priori, però non a posteriori. E la domanda, diciamo, la domanda è questa. L'esistenza del linguaggio negli esseri umani implica una differenza di nature, di sostanze all'interno dell'essere umano? Cioè diciamo, l'attività linguistica è un'attività fortemente, qualitativamente separata dalle altre attività biologiche degli esseri umani: nutrirsi, mangiare, fare sesso, defecare, muoversi, camminare, fare tutte le cose normali che fa un essere, come che fanno anche tutti gli altri, che sono comuni fra Homo sapiens e tutti gli altri animali. Bene, il linguaggio è qualcosa che è catalogabile all'interno di queste attività, cioè è un'attività biologica, ha un'origine e una funzione, è descrivibile all'interno delle attività biologiche dell'uomo, o c'è bisogno di categorie differenti, diverse, per poter interpretare il linguaggio? E allora voi, se siete un po' sgamati, capite subito che questa domanda rimanda ad un'altra domanda che è comune, che è un'altra problematica, un altro tipo di problemi, che è comune a tutte le culture. Non c'è cultura che non abbia, sulla faccia della terra, cultura umana che non abbia affrontato più o meno questo, come dire, problema, e diciamo, il problema è questo: nell'uomo ci sono una o due sostanze? Nell'uomo ci sono, c'è una o due ambiti di attività correlati ma differenti come origine, qualitativi? Insomma, dobbiamo avere una concezione monista, monos, unitaria, olistica, dal greco, oppure dualista. Esistono un corpo e un'anima, esiste, diciamo, e quindi le funzioni intellettive dell'uomo che rapporto hanno con le funzioni, con le altre funzioni biologiche degli esseri umani? O in altri termini, la funzione intellettiva e quindi la funzione linguistica, che è una delle funzioni intellettive degli esseri umani, è descrivibile come una funzione biologica o no? Allora, perché vi dico che a questa domanda non è possibile rispondere sulla base? Perché cioè bisogna fare una scelta, diciamo, preventiva in qualche modo. Poi questa scelta, ovviamente, se l'abbiamo fatta bene, cioè se l'abbiamo bene argomentata, eccetera, possiamo sottoporla a delle verifiche di vario tipo, comprese delle verifiche empiriche, questo è insomma certo, ma nessun ragionamento di tipo biologico, materialistico, monistico convincerà mai nessuno spiritualista, nessun dualista, nessun cartesiano. Diciamo, da quando Cartesio nel XVII secolo, all'inizio del XVII secolo, in una piena fioritura di una sorta di trasformazione della cultura umana in senso materialistico, che avrebbe portato poi nel decennio successivo a una serie di sistemi filosofici organicamente materialisti, ma ce n'erano già stati precedentemente anche nell'antica Grecia, sia pure molto marginali, ma c'erano già, insomma, l'opzione materialista è sempre esistita, non è mai una cosa che è saltata fuori così durante la modernità. C'erano dei materialisti anche nella diciamo, antichità, non tanto la filosofia epicurea come si è spesso pensato, ma insomma altre filosofie, probabilmente gli scettici e i cinici, sono, si possono dire, più, come dire, materialisti. Bene, Cartesio in questo momento qua Cartesio è una una figura fondamentale da questo punto di vista, perché ha un ruolo molto ambiguo. Da un lato è considerato giustamente uno dei fondatori del materialismo meccanicista, cioè è uno di quelli che ha detto, è quello che prima di altri e più chiaramente di altri ha affermato che il corpo umano è una macchina, anzi tutti gli animali sono macchine, non sono altro che macchine, cioè la biologia è riconducibile, tutta la componente biologica della vita è leggibile in maniera meccanica, si può ricondurre ad un paradigma meccanico. Oggi diremmo, con un termine molto più ovviamente moderni, che è algoritmizzabile, cioè si può descrivere con degli algoritmi. Attenzione, io non sto dicendo che questo sia vero, neanche dal punto di vista, io non sono, sono convinto che non sia vero neanche dal punto di vista biologico. Però, grosso modo, questa è stata la concezione di, diciamo, che Cartesio ha fondato il materialismo. Cartesio si chiamava René Descartes, però era francese, ma secondo me Descartes vuol dire delle carte, l'hanno latinizzato Cartesius, se andate in Francia cercate Cartesio non trovate un cazzo, trovate solo Descartes, giustamente, perché vabbè, Descartes, chiamiamolo Descartes pure noi, va. Così se vi capita di doverlo cercare su Wikipedia, ovviamente la voce francese su Descartes è fatta meglio di quella italiana, questo ve lo dico a priori, anche con l'inglese però non è male. Se leggete il francese o l'inglese, cosa che credo dovreste fare più o meno di deforma, se no pazienza, insomma, usate anche fonti in queste lingue, non solo in italiano. Perché, bene, allora, diciamo, Cartesio è quello che inaugura, diciamo, un paradigma, chiamiamolo meccanicista, si dice, no? Cioè, tutti i corpi, tutta la biologia ha una... ha un funzionamento meccanico, è fatta come le macchine. Quindi la grande metafora, questa è la grande metafora di quegli anni, è l'orologio. Non a caso gli orologi sono state le prime macchine costruite, le prime macchine di tipo nuovo, cioè le macchine sono vecchie, sono sempre state delle macchinette, insomma, le macchine semplici, quelle che si studiano in fisica, la leva, l'argano, quelle robe lì. L'orologio è la prima, nasce già alla fine, diciamo, del Medioevo, non è un caso che, che sia una macchina costruita per inquadrare, controllare, schematizzare, e misurare e unificare e omogeneizzare il tempo, che prima, anche lì gli orologi ci erano sempre stati prima, certo, gli orologi ad acqua, le clessidre, eccetera, ma la misurazione del tempo che fanno questi orologi è una misurazione molto imprecisa, molto vaga. Un orologio meccanico con le molle, gli scappamenti, eccetera, dà una misurazione del tempo molto più precisa, molto più uniforme, eccetera, eccetera. Insomma, non ci sarebbe stato capitalismo né società industriale se non ci fossero stati gli orologi. Quindi, diciamo, l'orologio diventa, fra 600 e 700, diventa una specie di grande paradigma del meccanicismo, e questa è una delle cose che va trattata. Però Cartesio contemporaneamente ha fatto un'altra operazione, ha detto sì, tutto questo va bene, funziona, tutto questo è vero, c'è tutta la materia è riconducibile ad un, si può leggere come un meccanismo, quindi come una macchina, come, quindi l'universo è una macchina, l'intero universo è una macchina, però dice questo vale per la materia, che cos'è la materia? Cartesio, Descartes dà una definizione in latino della materia, dicendo la materia, si chiama materia tutto ciò che ha una estensione, ciò che occupa uno spazio. Quindi in latino lui ha chiamato questa materia res extensa, una cosa estesa, res, rei, la parola latina che vuol dire cosa, extensa, estesa, è una cosa estesa. La res extensa, la materia, secondo Cartesio, è una sostanza, cioè è una qualità del mondo isolabile, riconoscibile, descrivibile, quindi è una sostanza, immutabile, non cambierà mai la materia nella sua essenzialità, cambierà, si trasformerà, ci sono tante forme di materia, ma l'essenza fondamentale della materia rimane uguale. Vi ripeto, non attribuite a me tutte queste cose, io non c'entro un cazzo con questa concezione, vi sto raccontando che cosa, come la pensa Cartesio. come la pensava Cartesio. Bene, però dice Cartesio, la res extensa non è l'unica sostanza dell'universo. Nell'universo ce ne sono due di sostanze, differenti, diverse, irriducibili l'una all'altra. Una è la res extensa, cioè la materia. L'altra è la res cogitans, cioè è la cosa che pensa. C'è una cosa che si estende, è la materia. E c'è una cosa che pensa, che è lo spirito, la mente, chiamiamola come diavolo vogliamo. Cartesio, Descartes era favorito, insomma, dal fatto che in francese la parola mente non esiste. I francesi hanno una sola parola per indicare sia spirito che mente, ed è la parola esprit. Quindi quando uno traduce esprit dal francese deve sempre stare attento al contesto, perché a volte bisogna tradurre spirito, a volte mente. Questa ambiguità rimane evidentemente nella filosofia, diciamo, cartesiana. Allora, questa impostazione cartesiana è un'impostazione importante, perché? Perché mentre diciamo, il materialismo, l'opzione materialista moderna, e in effetti molti seguaci poi di Cartesio nel secolo successivo soprattutto, ma in parte anche già nel 600, ma soprattutto nel 700, poi adottarono una visione uniforme, cioè estesero il materialismo a tutto e dissero la res cogitans non c'è, non esiste la res cogitans, non è altro che una funzione della res estesa. Ma Cartesio no, Cartesio mantiene separate le due cose e dice si tratta di due sostanze diverse, irriducibili l'una all'altra, eccetera, eccetera. Naturalmente, come dire, tutto questo ha dei pregi, dei, come dire, vantaggi, quindi allora tanto per capirci, allora, quindi per la concezione di Descartes noi dobbiamo qualificarla come una concezione dualista. La concezione dualista dice che le sostanze fondamentali del mondo sono due, la res extensa e la res cogitans, che la res cogitans ovviamente lo spirito, quindi diciamo la mente, è capace di operare sulla res extensa, in particolare all'interno del corpo umano, è ovvio, all'interno diciamo, dell'organismo, dell'essere umano, questo insieme di attività mentali o spirituali, per il momento, visto che i francesi non hanno delle difficoltà, no, negli aggettivi c'è, ma nel sostantivo non c'è. Diciamo, quindi queste attività mentali fanno parte di un livello separato e ovviamente superiore a quello della materia. La materia viene in qualche maniera comandata dallo spirito, dalla mente. Quindi questa è una concezione, ripeto, dualistica. Molti dei materialisti successivi, sempre francesi, ma anche tedeschi, a volte inglesi, eccetera, gli inglesi in genere lo fanno senza dirlo. Cioè Hume, che è il più grande filosofo, uno dei più grandi del secolo successivo, cioè dei primi del Settecento, secondo me si può qualificare di materialista, però voi non trovate mai nelle sue opere una presa di condizione molto chiara, cioè, esiste solo la materia. Lui in realtà tutto ciò che argomenta lo argomenta partendo da questo presupposto implicito. Un punto di vista materialista non vuol dire tutta materia, il pensiero non esiste, cioè è ovvio che il pensiero esiste, ma un punto di vista monistico, cioè materialista, tenderà a tentare di spiegare tutte le attività mentali come una funzione particolarmente complicata, particolarmente raffinata, però del livello diciamo materiale, insomma, in modo particolare, dopo le più recenti scoperte, nei primi tempi, fra gli antichi greci non era chiara per esempio la funzione del cervello, questa supremazia che il cervello ha avuto, come successivamente nella biologia, parlo di biologico, come centro di comando e di coordinamento dell'intero funzionamento del corpo umano, è stata una roba che ci ha messo molto tempo, prima del 700 non viene fuori. Gli antichi greci era come dire policentrica la concezione dei greci sull'uomo, c'era la testa era chiaramente un centro, ma per esempio molte delle cose avvenivano nel petto secondo i greci, molti dei processi che anche noi chiameremmo mentali, tutti quelli affettivi, cioè, anche oggi si usano il cuore, dice col cuore, ci si innamora col cuore, si innamora, in realtà non si innamora col cazzo, si innamora sempre con il cervello, non, però noi siamo abituati a dire questo perché è una, uno strascico, un retaggio di vecchi modi di pensare, di questa concezione, ripeto, come dire, policentrica. Bene, comunque una volta che il cervello si afferma, come noi diciamo, un punto di vista materialista tende a interpretare il pensiero come una funzione cerebrale. Il pensiero è una funzione cerebrale, cioè sono, ci abbiamo tanti, tutta questa quantità enorme, a volte sembra anche un po' eccessiva, si dice superflua a volte, non è vero, di diciamo, neuroni che sono più di 10 miliardi nell'essere diciamo, adulto, 10 miliardi ne avete grosso modo voi e non un po' meno, vi ho già detto l'altra volta credo, perché i neuroni muoiono e vengono rimpiazzati con grande difficoltà. E poi ci sono le connessioni tra questi tra neuroni, che sono le sinapsi, alcune di queste connessioni sono volatili, cioè si verificano, si manifestano, si costruiscono in un momento particolare e poi scompaiono. Per esempio la connessione tra i vostri volti e i vostri nomi per me sarà a lungo volatile, cioè non mi ricorderò mai dalla volta all'altra come vi chiamate, anche supponendo che... però poi a poco a poco alcune di queste si stabilizzano, eccetera, eccetera. Alcune di queste connessioni si vengono rese permanenti da un processo biologico vengono, e quindi formano delle sorte di circuiti neuronali che sono la base della... come forse ho spiegato l'altra volta, della memoria. Non mi ricordo mai perché quando faccio due corsi insieme è sempre un casino, quindi non so mai cosa ho detto qua, cosa ho detto alla NABA, sia pure gli argomenti sono differenti, ma a volte capita che si dicono delle cose simili. Allora, questo è il punto di vista materialistico, il punto di vista monista. Ovviamente qual è il punto debole del materialismo e del monismo? Ovviamente c'è un punto debole. È che manca ancora di una teoria completa, bella e funzionante in tutti i campi, a tutti i livelli, per spiegare realmente come questa attività biochimica ed elettrica, perché l'attività dei neuroni consiste, sapete, fanno due attività prevalenti quando entrano in contatto attraverso i loro assoni, cioè le loro quelle code lunghe, che i loro dendriti che si fondono, fanno dendrite, ogni neurone ha questa coda chiamata assone, quando due assoni si fondono formano una coda chiamata dendrite, quindi entrano in contatto. Quando due neuroni entrano in contatto succedono due cose in genere, succede una piccola scarica elettrica, cioè una piccola passaggio di elettricità da un, cioè un piccolo potenziale elettrico di poche centesimi di volte, se non guarda, o pochi decimi di volte, non mi ricordo mai. Non sono un neurofisiologo, quindi non mi potete chiedere troppo particolari su questa roba. E poi contemporaneamente però c'è anche un rilascio di una sostanza chimica. Ci sono dei cosiddetti neurotrasmettitori che si trasmettono. Quindi c'è sempre una attività elettrica e una chimica. Ora, ovviamente noi non sappiamo, non siamo ancora in grado di spiegare come l'attività cerebrale elettrochimica del signor Wunnenburger abbia prodotto questo libro, cioè come abbia prodotto i concetti che stanno qua dentro, perché non siamo in grado di descriverlo. Però il punto di vista materialista tende a dire che in qualche modo ciò che il contenuto di questo libro, ciò che qualsiasi cosa noi facciamo in tutti i nostri contenuti mentali, sono in qualche maniera correlati con una attività, diciamo, cerebrale. Il dualista tenderà invece a dire non che noi non conosciamo ancora bene il modo attraverso il quale c'è questo passaggio dal livello materiale, ma tenderà a dire che si tratta di due attività totalmente differenti, cioè che il mentale è irriducibile al cerebrale. Irriducibile, dirà lo spiritualista. Il mentale, tutto ciò che è mentale, non è riducibile, cioè ovviamente non è, totalmente cretino, anche lo spiritualista concederà che c'è un rapporto tra la dimensione mentale, tra la dimensione e quella come materiale, però dirà che c'è sempre qualcosa di più, che c'è un'eccedenza del mentale sul materiale. A volte anche il materialista potrà dire che c'è un'eccedenza, io a volte lo dirò, però lo dirà in modo diverso da come lo dice un materialista. Allora, a questo punto, detto questo, spero di avervi chiarito il quadro, io vi devo dire da che cosa... Allora, perché vi dico che non c'è modo di risolvere come dire, scientificamente questa questione, perché diciamo, lo spirituale, cioè, come dire, si tratta di una scelta che voi fate in qualche maniera a priori, la fate a posteriori, la fate dopo, la fate per effetto di tutta una serie di cose che avete pensato ognuno di noi, che c'è, cioè, quindi anch'io non è che dico che sono nato e che a priori ero materialista, magari lo sono diventato dopo tanto tempo e magari forse non lo sono in modo neanche, diciamo, preciso e diciamo sincero neanche forse adesso, non lo so, però è quello che io credo di essere, e quella è la mia convinzione attuale, cioè il mio sistema di credenze si basa sul materialismo, quindi io vi racconterò tutte le cose da un punto di vista materialista, non da un punto di vista spiritualista, però ovviamente vi dirò sempre, tutte le volte che sarà necessario, che c'è quest'altro punto di vista da cui invece molti altri guardano le cose. Il mio scopo non è quello di convincervi di essere materialisti, ognuno di voi si convince di quello che gli pare a lui o a lei, e non è una cosa che mi riguarda a me. Però, come dire, mi riguarda che qualsiasi vostra convinzione ovviamente venga costruita, difesa, argomentata, sostenuta, impalcata in maniera, diciamo, decente, in modo che il primo scossone non ve la butti giù, se no il primo scossone ve la butta giù, il primo scossone non di terremoto, ma il primo mascalzone che passa e dà una scrollata alle impalcature. Dovreste cercare di fare in modo che i vostri contenuti mentali siano un po' più, al di là della vostra convinzione, voi potete essere convintissimi di una cosa e la cosa che voi pensate può essere, da un punto di vista organizzata razionalmente, può essere fragilissima. Allora, quindi ripeto, ci vuole una. Quindi questo, come dire, mi dispiace, ma non c'è altro modo, perché se io posso certamente raccontarvi, e lo farò nel modo più, virgolette, obiettivo possibile, ma non mi posso dimenticare di come la penso io, quindi per forza di cose, anche se io volessi fare finta di dimenticarmi, tutto ciò che vi dico sarebbe influenzato dalla mia. Quindi la conclusione di tutto questo è che. Mi ha messo un po' di tempo per arrivarci, ha messo quello che volevo provare a fare oggi, adesso l'ho pure spento perché se no mi rompo i coglioni con il telefono, era quella di darvi un minimo di inquadramento del linguaggio dal punto di vista biologico, certo. Perché quella è la, cioè, e questo voglio dire vale comunque in tutti i casi, qualsiasi punto di vista voi accettiate, anche se poi andate, finite su una ipotesi dualistica. In qualche maniera qual è la fondazione biologica del linguaggio dovete saperlo, rifletterci, pensare, perché insomma se no non si arriva. Allora abbiamo fatto già un po' di strada, perché abbiamo visto perlomeno quali sono i problemi che ci pone anche soltanto, non abbiamo ancora neanche tanto, non siamo andati neanche tanto a vedere come è fatto questo del linguaggio, però abbiamo già capito che coinvolge una serie di problemi, non dico più grossi di lui, ma no? Di una certa ampiezza, di una certa, diciamo, dimensione. Mi sembra che ne ho letti due sinora di punti. Arriviamo al terzo. Il terzo punto è, ma qual è la funzione del linguaggio? A cosa serve questo linguaggio? E questo è un problema, un punto, è un, insomma, problema, non soltanto fondamentale, ma probabilmente anche più comprensibile, cioè voglio dire, è più semplice per qualsiasi insomma, di noi porsi questo problema, ma a cosa serve questa cosa? Io, ponendomi da un punto di vista, diciamo, puramente biologico, dico non solo biologico, ma aggiungo, mi pongono solo da un punto di vista biologico, ma da un punto di vista dell'evoluzionismo darwiniano, perché l'evoluzionismo darwiniano è l'unica teoria scientifica per il momento confermata che noi abbiamo a livello macrobiologico, cioè a livello macrobiologico e a livello della biologia storica, dello sviluppo storico degli esseri biologici. Non abbiamo, non ci sono, secondo me, altre ipotesi, certo ce ne sono altre, adesso possiamo fare un rapido accenno, ma non ho il tempo di programmi tanto, certo che ci sono, cioè, c'è il creazionismo e ci sono quelle teorie intermedie chiamate dell'intelligent design, cioè del cosiddetto progetto intelligente, intelligent design, che dice senza impegnarsi troppo su quale sia l'origine, che però le cose nello sviluppo degli esseri viventi su questo pianeta sono andate come se ci fosse un progetto intelligente. Invece il darwinismo, diciamo, il punto di vista evoluzionistico di tipo darwinista, esclude ogni progetto, quindi ogni finalità nei processi biologici. I processi biologici, secondo il punto di vista darwiniano, sono processi che avvengono in maniera puramente casuale. Avvengono, la cosiddetta selezione delle specie non avviene perché c'è qualcuno che progetta, voglio fare, e neanche una sorta di logica immanente, anche se non c'è un soggetto preciso che manipola questa cosa. L'intelligent design a volte dice non c'è un soggetto preciso, però è come se ci fosse un... Non è vero, così il punto di vista darwiniano nega questa cosa e tenta di spiegare tutto in termini molto più semplici, cioè molto più materialistici, e cioè come effetto di una pressione selettiva determinata da un insieme di mutazioni casuali. All'interno, questo la... cioè, per fare questo naturalmente non dobbiamo avere una concezione, come si dice, fissista del genoma, cioè che il genoma non cambia mai. Il patrimonio genetico dei singoli individui di una certa specie è soggetto a mutazioni, cambia in piccole quantità, in piccole cose, e queste mutazioni sono totalmente casuali, derivano dal fatto che, adesso che lo sappiamo, prima non lo sapevamo, adesso sappiamo che c'è questo meccanismo in cui c'è un qualche cosa, un insieme biochimico di quattro sostanze, di quattro basi che si chiamano DNTP, sì. Non mi chiedete il nome, non mi ricordo mai, disposta a questa forma di doppia elica, che formano questa complessa molecola chiamata DNA. C'è un'altra molecola chiamata RNA che serve per trasferire alcune strutture, quindi quello che noi figurativamente chiamiamo l'informazione da una catena all'altra del DNA. All'interno, siccome questi sono tutti processi biologici, capita che una cellula si sbaglia, che è programmata male, che parla male, quindi copia male, sono errori di copiatura, come quando si scrive la macchina, come quando si scrive con il computer, come quando si fa un'immagine del computer. In qualsiasi processo ci sono degli errori. Questi errori determinano degli individui mutanti, poco o tanto mutanti. La grande quantità di queste mutazioni totalmente casuali, cioè totalmente, non c'è nessun progetto intelligente, nessuna cosa, c'è il caso capita. La gran parte di queste sono queste mutazioni sono di piccola entità, non hanno grandi, diciamo, grandi risultati sul funzionamento dell'organismo, e quindi si trasmettono o non si trasmettono, si amplificano. Anche se si amplificano, però riguardano una porzione talmente piccola e hanno effetti talmente periferici sulla vita dell'organismo che sono totalmente ininfluenti. Questa differenza di cose per noi esseri umani è la responsabile del fatto che abbiamo tutti delle corporature, delle facce, delle cose diverse, ovviamente, no? Questo non vuol dire che la mia faccia sia più adatta della vostra o la tua più adatta della mia alla sopravvivenza. Sono ininfluenti probabilmente, sono cose. Però una piccola frazione di queste mutazioni invece creano individui che realmente funzionano in maniera un pochino diversa in alcune caratteristiche dagli altri esseri umani. Ora, per queste persone sì, ci possiamo porre questa domanda. Questi individui mutanti, questa piccola popolazione di individui mutanti, ammesso che questa mutazione abbia qualche influenza rilevante sul comportamento di questi esseri viventi, li rende più o meno adatti alla vita comunitaria di specie e al rapporto con l'ambiente? Gli dà più o meno armi, più o meno strumenti rispetto alla media del resto della popolazione? Se la risposta è no, non gli dà nessuno strumento, vuol dire che questi individui mutanti saranno individui meno adatti alla, come dire, sopravvivenza. E quindi nella competizione che in ogni specie, fra tante specie, c'è per conservarsi un certo insieme di risorse, cibo, eccetera, eccetera, accesso al cibo, accesso alla riproduzione, quindi accesso al sesso anche, no? All'interno della specie, vuol dire che questi individui saranno svantaggiati e quindi prima o poi moriranno e non avranno, avranno meno possibilità di altri di trasmettere quelle mutazioni genetiche ai propri discendenti. Quindi queste mutazioni genetiche si perderanno. Le mutazioni genetiche che non danno vantaggi riconoscibili, specifici, nella lotta, nelle attività di competizione inter e intraspecifiche fra le varie specie all'interno della singola specie, tendono a scomparire, perché questi esseri tendono a mangiare meno, a scopare meno di quello che fanno gli altri esseri di quella stessa specie, e quindi vivono meno, quindi non solo vivono meno, ma hanno anche meno possibilità di trasmettere il proprio, diciamo, genoma attraverso l'attività, diciamo, sessuale, che sapete tutti, da un certo livello di complessità in poi è la base della funzione riproduttiva di tutti gli esseri viventi, sia delle piante che degli animali. Ci sono alcuni animali semplicissimi che non hanno riproduzione sessuata, quindi la gran parte delle forme di vita unicellulari si riproducono per cariocinesi, cioè si sdoppia la cellula, ma nella gran parte degli animali, il lombrico anche è una sorta di ermafrodito, eccetera, ma insomma dai crostacei in su tutti scopano, insomma, in vario modo, cioè, per i pesci scopare vuol dire spruzzare lo sperma maschile sulle uova che sono già deposte, quindi non c'è nessun contatto reale tra i pesci, però insomma ognuno ha la sua forma di fare sesso, sino a poi ai invece rettili, uccelli, mammiferi che praticano invece una forma di connessione di carnale più forte, insomma, tra i corpi del maschio e della femmina, eccetera, eccetera. Però ci può essere l'altra ipotesi. Ci può essere l'ipotesi che sempre casualmente, senza che nessuno l'abbia pensato, ma alcune di queste mutazioni, creino per gli individui che ne sono portatori una serie di opportunità maggiori. Questi individui mutanti, in alcuni piccoli casi, in un piccolo caso, questi mutanti potrebbero avere, essere più forti, essere più intelligenti, essere più furbi, essere più belli, essere più appetibili all'altro sesso, quindi mangeranno di più, scoperanno di più, quindi avranno maggiori possibilità di trasmettere i propri geni, il proprio patrimonio genetico ai propri discendenti. Se questa situazione di individui mutanti che appunto hanno queste nuove caratteristiche avviene all'interno della vita normale di gruppi di una certa specie, l'esito più probabile è che a poco il patrimonio genetico di quella specie evolva nel senso di questi qua mutanti, perché questi, avendo maggiori possibilità di avere accesso al cibo, di avere accesso al sesso, e quindi avere accesso a tutte le, diciamo, risorse, tenderanno a poco, ci vorrà molto tempo, ma può essere che il patrimonio genetico di quella specie cambi. Si tratta di un processo, come si può dire, di una specie di processo evolutivo riformista. Non c'è nessuna rivoluzione, però piano piano quella specie cambia. È difficile retrospettivamente capire come siano andate le cose davvero, perché invece l'altra ipotesi è che per una serie di motivi, alcuni dei quali anche culturali, e quando dico culturali non intendo solo, diciamo, gli uomini, perché c'è una cultura, cioè almeno tutti gli animali superiori, almeno tutti i mammiferi in qualche maniera hanno un tipo di comportamento che si può definire culturale, c'è una componente culturale, c'è una componente culturale vuol dire non direttamente biologica, che si vada su una base chiaramente biologica, ma che è, quindi sono una serie di regole di comportamento che non hanno diretta rispondenza con delle strutture biologiche, no? Le strutture biologiche potrebbero tollerarne diverse di forme di comportamento. Un certo gruppo animale adotta l'una o l'altra forma di comportamento, quindi l'una o l'altra cultura, per ragioni che non sono totalmente extrabiologiche, ma che sono in parte biologiche e in parte extrabiologiche. È una cosa un poco misteriosa, ma noi la chiamiamo cultura. Negli esseri umani questa diciamo, sfera è iper, c'è una superfettazione, c'è una crescita abnorme per certi versi di questa componente culturale. Perché? Perché abbiamo questa cosa che è il linguaggio, evidentemente, è quello responsabile. Adesso poi torneremo là, era per farvi capire. Allora, in alcuni di questi casi può essere che l'individuo mutante tenda a essere emarginato dal gruppo degli altri individui normali di quella specie, pur avendo di per sé, da un punto di vista delle prestazioni biologiche di base, anzi, a volte proprio per quello, maggiori, come dire, possibilità. A quel punto, attraverso una serie di... non è così semplice come ve la dico io, perché anche lì è molto lunga e molto complesso, però può essere, se questo tentativo di, chiamiamolo, emarginazione, o che può essere anche una auto-emarginazione, possono essere anche gli individui mutanti che non hanno tanta voglia di stare con gli altri, non è che sia. Se questa cosa si accoppia con una condizione strutturale, territoriale, reale, biologica, cioè se questi esseri riescono a separarsi abbastanza nettamente dal resto dei loro vecchi compagni di, diciamo, di specie, da un punto di vista territoriale, quindi per esempio se c'è una valle particolare, cioè difficilmente accessibile, eccetera, e molti di questi mutanti si individuano in quella base, quindi si crea una situazione di segregazione e quindi i geni non si mescolano più, perché gli individui mutanti tendono per qualche serie di motivi, adesso non stiamo a sottilizzare per quali motivi, però per una serie di motivi tende a esserci una situazione topografica, proprio di, diciamo, di luogo, di posto, in cui questi nuovi individui mutanti tendono a isolarsi, quindi c'è una situazione di autoisolamento o di isolamento coatto. In questi casi è ovvio che diciamo, l'interazione tra i vecchi geni e i nuovi geni non c'è più, i vecchi geni continuano a essere, e siccome già più o meno si erano dimostrati relativamente utili per la sopravvivenza di quella specie in qualche maniera rimarrà, a meno che non capitino delle cose, adesso vedremo l'esempio degli esseri umani, è inquietante da questo punto di vista, però contemporaneamente ci saranno degli altri individui mutanti nei quali questa piccola quantità di materiale genetico diverso, in una situazione di isolamento, tende più rapidamente che nell'altro caso, che se si fossero trovati mescolati con gli altri, tende più rapidamente a rafforzarsi, addirittura ad estendersi, autogenomico. In altri termini, si crea un animale che ha un punto di partenza molto simile a quello dei vecchi animali, ma che a poco diventa una specie nuova. Questo è il processo di speciazione, di formazione, visto dal punto di vista, ripeto, darwiniano. Il creazionista vi dirà che non è così, l'intelligent design vi dirà che c'è qualche che è come se ci fosse un presente, il darwinista vi dirà non c'è nessun cazzo di progetto intelligente, non c'è niente di simile, è tutto casuale. Casualmente arriva, e infatti chissà quante volte, diciamo, esperimenti, chiamiamoli di questo tipo, sono abortiti, perché appunto non esistono alcune, c'è poi un'evoluzione, alcuni sopravvivono, altri vanno, eccetera, eccetera. Perché vi dicevo che l'essere umano è... lo so che dovrei procurarmi del gesto, ma... Se voi fate un grafico della vita delle specie umanoidi, quindi delle specie di primati, noi siamo scimmie, siamo primati, all'incirca da 4 milioni, 5 milioni di anni, 4 milioni e mezzo di milioni di anni fa, ad oggi, quindi partite dalle prime specie che oggi vengono denominate Australopithecus, ce n'è di varie specie. Poi a poco, dopo l'Australopithecus, i nomi, le denominazioni sono cambiate tantissimo. Insomma, comunque a poco si arriva, cominciano le specie chiamate diciamo, comincia un genere Homo, quindi le specie chiamate Homo, non sono ancora Homo sapiens, ce n'è anche chi per arrivare con l'Homo padre, non c'è più, come adesso mi sembra c'è un Homo ergaster, poi c'è un Homo habilis, poi c'è un Homo generali, poi c'è un Homo neanderthalensis. Se andate, cioè se cercate, se siete interessati a queste cose, e poi c'è Homo sapiens. Se cercate queste cose ne trovate su internet un sacco di cose. Allora, se voi vedete la vita di questi, adesso mi rimane poco spazio, devo fare, voi pensate una cosa così, è molto bello. Questi autopitechi, diciamo, cominciano più o meno qua, avanti, dopo un po' si estinguono, Dopo un po' ne viene fuori un'altra specie che dura un po' di più e dopo un po' si estingue. Poi un'altra, più o meno il grafico è così. Cioè tutte, e lo stesso capita quando cominciano le specie di Homo. In generale c'è sempre stata una sovrapposizione, a volte più lunga, a volte più breve, A volte è meno breve, a volte è meno lunga, scusate, però c'è sempre una certa piccola sovrapposizione. La cosa strana però è che tutte queste specie, gli australopitechi di 4, qui siamo a circa 4,5 milioni di anni fa, questo è Liusi, per esempio, Liusi, specie Liusi. Primo scheletro che hanno trovato, il pensato che erano alti 1,20 m, posizione semi-eretta, però erano già la posizione eretta di già. Non tutti questi qua non sappiamo se parlassero, se avessero linguaggio. È possibile. Io sono convinto che qualche cosa di simile ce l'aveva, perché se no non sarebbero stati. Comunque hanno già il pollice opponibile, credo c'erano anche le scimmie, costruiscono già degli attrezzi, però scheggiano già la pietra, quindi non, se anche non parlano, però hanno già una. Bene, l'ultimo è l'Homo neanderthalensis, che è lungo, Poi vediamo l'Homo sapiens. L'Homo sapiens è cortissimo. L'Homo sapiens è questo, più o meno. L'Homo sapiens ha all'incirca 250.000 anni. Forse un po' di più, forse un po' di meno, Noi siamo gli ultimi, sono gli altri ultimi. Sicuramente Sapiens parla, noi siamo la prova che parliamo, quindi. Qui siamo all'incirca a 60.000 anni fa. 60.000 per un breve tempo, per un breve periodo, tutti gli altri erano già estinti tutti. Homo sapiens e Homo neanderthalensis si sono trovati fianco a fianco su questo pianeta. Poi Neanderthalensis si è estinto pure lui. Noi non lo sappiamo perché si sono estinti tutti. Se voi guardate, fate uno schema analogo per tutte le altre famiglie animali, non c'è questa roba. Cioè le robe sono più lunghe e sono molto più, diciamo, coesistenti. Le specie animali coesistono per a lungo, molto a lungo, insomma. Dentro il grande ordine dei cosiddetti dinosauri, cioè dei sauri di grandi dimensioni che hanno dominato su questo pianeta per più di 100 milioni di anni, che si sono estinti all'incirca 60 milioni di anni fa, ma quello che noi sappiamo dall'esame delle specie fossili ci fa vedere che c'era una coesistenza, che ognuno si scavava la sua nicchia ecologica, il suo ambiente, la sua cosa, viveva in quell'ambiente, e in quell'ambiente era, certo c'era qualche sconsiderato di altre specie che andava a rompere i coglioni in quell'ambiente, ma insomma veniva rapidamente ridotto a più o meno i consigli, nel senso veniva sbranato, fatto fuori, eccetera, ma la specie in quanto tale non si estingueva per questo sete di rapporto. Invece perché da noi si sono estinte sempre? Perché nella grande famiglia di ominidi, chiamiamo, no? Si potrebbe dire che si si può creare una famiglia di ominidi in cui ci sono tutti i generi più o meno vicini al genere Homo, quelli chiamati Australopithecus, che a volte si erano chiamati, un periodo venivano chiamati, i Paranthropi, i nomi sono cambiati, negli ultimi 50 anni la paleantropologia ha fatto, quindi quella che ho studiato io 30 anni fa già funziona pochissimo, è per questo che esito a dirvi i nomi nuovi, perché ce n'è un casino, comunque insomma. Beh, insomma, per quanto riguarda gli altri non è chiaro, ma per quanto riguarda Homo sapiens è chiarissimo, perché Homo sapiens effettivamente ha una differenza rispetto ad altre specie, cioè non ha alcuna predisposizione a scavarsi, a diciamo ritagliarsi una nicchia all'interno del pianeta. Homo sapiens non ha nicchia ecologica. Tutte le altre specie animali hanno comprese le specie, questo non siamo proprio sicuri perché non è detto che fosse così, ma diciamo tutte le specie, tutti gli altri primati, anche i primati antropomorfi, altro dato inquietante, 4 milioni e mezzo di anni fa esistevano sulla Terra pochissime specie di scimmie di piccola taglia, e invece centinaia di specie di scimmie di primati di grande taglia, più o meno come gli esseri umani, no? Poco meno, poco più. Nel giro di 4 milioni e mezzo di anni, che cosa è successo? Che cosa abbiamo adesso? Un casino. Abbiamo un casino di specie, abbiamo esattamente l'opposto. Abbiamo una quantità di scimmie di piccola taglia, centinaia di specie di scimmie di piccola taglia, e abbiamo solo, se rimasero più tre su centinaia che erano, tre specie di primati antropomorfi, gorilla, scimpanzé e orangutan, due dei quali assolutamente a rischio di estinzione. L'orangutan e il gorilla. È collegato questo con questa strana caratteristica di Homo sapiens di non avere nicchia ecologica, cioè di avere, non solo di essere capace di sopravvivere in qualunque ambiente, in seguito alla sua abilità tecnica di trasformare l'ambiente, quindi di costruirsi delle case, di mettersi addosso delle pelli di altri animali, tutte robe che sono anche stupidaggini, invece sono importanti, perché sono quelle che consentono di avere uomini che vivono al polo nord e uomini che vivono all'equatore. Ripeto, cercate nessun'altra specie animale è fatta così. Trasportate un elefante, sapete benissimo tutti i problemi che c'erano adesso, insomma, speriamo sempre meno, per mettere in piedi uno zoo. Cioè, nello zoo gli animali morivano come mosche, perché li porti un elefante in un clima temperato, devi costruirgli una specie di piccola serra artificiale intorno per farlo vivere, ma se no lui crepa qua, ma con qualsiasi animale non c'è. L'unico animale che ha una abilità tecnica così sviluppata da essere capace di uniformare l'ambiente ai propri bisogni è Homo sapiens, e quindi questo. E adesso noi non possiamo dire sicuramente che sia, però probabilmente questa è, perlomeno sembrerebbe che ci sia una correlazione tra la difficoltà che hanno i nostri vicini più prossimi, i nostri cugini più prossimi. Neanderthalensis non possiamo dire che l'abbiamo sterminato, forse non l'abbiamo sterminato noi, ma 60.000 anni fa qualcosa deve essere successo, per cui cioè in Europa stavamo insieme, quindi diciamo Neanderthal non si sa dove sia nato, noi siamo sicuri, Sapiens sicuramente è nato in Africa e poi dall'Africa si è spostato in tutto il resto del mondo in tempi molto recenti, quindi 60, 70.000, a volte 30.000, In Australia gli esseri umani stanno da 30.000 anni, quindi da molto tempo dopo che Neanderthal si era estinto. Però Neanderthal si è estinto. E Neanderthal probabilmente era una specie che non era più stupida di noi, aveva lo stesso, diciamo, il cervello era grande uguale, le poche prove che abbiamo, diciamo, della paleoantropologia fossile, denotano che avevano una vita culturale molto intensa, quindi probabilmente nel senso che seppellivano i morti, facevano riti funebri, probabilmente si dipingevano il corpo, tutte robe che, cioè, non è che le fa una scimmia normale, no? Quindi vuol dire che è del tutto probabile che fossero dotati di linguaggio pure loro, però erano una specie diversa da noi. non c'è nessuna prova che noi, che Homo sapiens sia cattivo, crudele, abbia sterminato anche, e che ci provi più gusto a sterminare i propri, anche se poi tutta la storia dell'umanità successiva, no. So bene che potrebbe portare a conclusioni anche più, diciamo, catastrofiche di questa, però effettivamente noi non abbiamo però questo sta di fatto che c'è. E allora abbiamo messo queste basi. Quante ore sono, ragazzi? Ditemi un'ora. 4:15. Grazie. No, perché sennò poi mi chiamano e non riesco a... se apro il cellulare. Allora, torniamo a dove siamo, a dove ci eravamo fermati un attimo. No, diceva, a cosa serve allora il linguaggio? Allora, a che cosa serve? Era perché ho fatto questo breve excursus sul punto di vista darwiniano, perché in qualche modo, non tutti, ma insomma la gran parte degli organi più significativi degli animali hanno una certa funzione. Attenzione, funzione a priori o a posteriori, non è detto che per forza di cose le funzioni siano, allora, nelle teorie creazioniste o di intelligent design è ovvio che c'è sempre un a priori, perché serviva per fare quello, non serviva un cazzo, cosa volete che servisse? Cioè, un organismo si trova delle cose che ha, e certamente se casualmente gli è uscito, gli sono usciti degli arti anteriori in cui un dito si può opporre agli altri, gli oggetti si possono afferrare. Se hai tutte e cinque le dita così, li afferri, ma è meno, la tua presa è meno stabile. Quindi è ovvio che un essere di questo tipo è più probabile che sviluppi una serie di attività artigianali, cioè collegate con degli utensili, piuttosto che non uno che non ha il pollice opponibile, come ovvio, insomma. Questo grosso modo succede più o meno per tutte le parti, per tutte le componenti dell'organismo. Dal punto di vista del linguaggio, effettivamente ci sono differenze abbastanza fondamentali all'interno del cavo orale e nella zona all'inizio tra l'apparato digerente e l'apparato respiratorio che stanno nel retro della bocca, negli esseri umani rispetto a qualsiasi altra specie anche molto simile e molto, diciamo, vicina. Queste differenze tra l'uomo e le scimmie più prossime, più vicine a noi sono fondamentalmente, diciamo, tre. La prima è la presenza delle corde vocali, cioè la presenza di un ispessimento che nessun altro primate ha, diciamo degli ispessimenti cartilaginei della parete più esterna, cioè no, più interna, certo, della gola in qualche modo, capaci di vibrare, che sono quelle che generano la gran parte dei suoni che noi siamo in grado di generare. Se non avessimo le corde vocali non avremmo, infatti scimpanzé, orangutan e gorilla, eccetera, non avendo le corde vocali, anche loro sono in grado di produrre suoni, ma non sono suoni, non hanno 30 suoni diversi, 35, la possibilità di produrre, noi abbiamo potuto produrre molti di più, anche 50, 60, 70 suoni diversi, però poi dopo quelli che sono significativi per il linguaggio si riducono in genere a una trentina o poco più. Allora, primo sono le corde vocali, secondo l'abbassamento della laringe. La laringe degli esseri umani è l'unica specie di primati che ha la laringe abbassata rispetto alla faringe, cioè quindi che ha lo sbocco del condotto polmonare, cioè o l'inizio, se volete, la via d'ingresso dell'apparato respiratorio, abbassata rispetto a quella digerente. Questo combinato col fatto che la laringe si trova davanti, eccetera, eccetera, insomma, crea il fatto che ci vuole. Noi abbiamo un complicato sistema per impedire che i bocconi, che il cibo ci vada a finire nei polmoni, cosa che gli altri animali, di cui gli altri primati, non hanno bisogno. Quindi abbiamo questa linguetta chiamata epiglottide che scatta automaticamente ogni volta che noi mangiamo, che copre la, diciamo, laringe, che fa entrare tutto il naso, perché se no non saremmo tutti morti, perché non faremmo altro che tossire, perché ci andrebbe il cibo. E quando ci va la corda per storto è perché l'epiglottide scatta male, quindi non riesce ad andare. La terza cosa è il numero e la quantità di muscoli facciali, sia interni che esterni, che negli esseri umani è maggiore di 3, 2, 3, non so, forse anche 10 volte, questo universo non so dirvi un numero preciso, rispetto agli altri primati. E non parliamo dei lupi, dei cani, degli orsi, parliamo dei primati, cioè dei primati e delle cosiddette scimmie antropomorfe, quindi di quelli, di quei pochi che sono rimasti, che sono più simili a noi. Queste sono le tre principali caratteristiche biologiche specifiche degli esseri umani che consentono il linguaggio. Ah, va bene, cioè, che consentono il linguaggio vuol dire adesso, perché ci stiamo avvicinando piano piano, quindi che consentono un sistema di articolazione dei suoni è sufficientemente ricco per produrre un linguaggio. La gran parte degli altri animali, in particolare la gran parte dei mammiferi e degli uccelli, comunicano o comunque insomma emettono dei suoni, ma il ventaglio di suoni che essi sono in grado di produrre è nettamente inferiore a quello degli esseri umani. Detto questo, naturalmente questo non basta per fare un linguaggio umano, non basta per fare un linguaggio, perché per quanto siano pochi, anche gli oranghi, anche i lupi, anche qualsiasi altro mammifero è in grado di produrre. Perché? Perché la produzione di suoni di questi animali non è qualificabile, non è descrivibile come un linguaggio, mentre quello degli esseri umani sì. Questa domanda è collegata con quella a che cosa serve il linguaggio. Quindi proviamo per il momento a rispondere alla domanda a che cosa serve il linguaggio. Se voi doveste dare una risposta a questa sua domanda che qualche bambino vi pone, un bambino particolarmente rompi con i bambini, bisogna dare una risposta, se no non c'è più. No, ma cosa serve? Perché parliamo? Cosa serve il linguaggio? Cos'è il linguaggio? Che cosa gli rispondereste? Qual è la vostra ipotesi? La prima cosa che mi viene in mente, che sia plausibile però, insomma, che qui il povero bambino, cercate di non ingannare questo bambino, insomma, ditegli qualcosa di sensato. A cosa serve il linguaggio? Che funzione ha? Quello per capire gli altri, quello che hanno da dirci. Sì, non fatela troppo complicata, andate il più basso possibile. Questa risposta è tautologica, cioè mi ridice le stesse cose. A cosa serve per parlare? Allora, io ti dico, a cosa serve parlare? Dammi un qualche cosa. Per far conoscere delle necessità o dei bisogni che si hanno e per ascoltare. Va bene. Come si chiama questa funzione generale? Comunicazione. Quindi io suppongo che questa cosa vi va bene per tutti, suppongo che sia una cosa abbastanza generalizzata. Quindi potete dirlo più in fretta di come avete detto, il linguaggio serve per comunicare, punto. È uno strumento di basta, adesso no, cioè, comunicare. Sì, vabbè, ma supponiamo di capire cosa vuol dire comunicare, mettere in comune, far passare dell'informazione da un individuo a un altro. Relativamente semplice. Purtroppo, ahimè, questa cosa è sì, forse un pezzettino di verità c'è, ma soprattutto quello che non si capisce è perché noi siamo gli unici animali ad avere un sistema di comunicazione? No. No. Tutti gli animali hanno sistemi di comunicazione, diversi, ma tutti. Molti più vicini a noi, la gran parte dei mammiferi, addirittura basato sulle stesse caratteristiche nostre, cioè sul suono, sulla emissione di suoni. Altri animali che non emettono suoni comunicano in altro modo, per esempio le formiche. Le formiche comunicano tra loro? Probabilmente. Come probabilmente? Certo che comunicano. No, non probabilmente, sicuramente. Sicuramente. Ci sono situazioni standardizzate, Le formiche sapete che hanno una società, sono degli animali un po' particolari, insomma, si chiamano insetti sociali, perché, insomma, è una società che non credo che nessuno di noi abbia voglia di sopravvivere in quella in una società di quel tipo lì, anche se qualcuno voleva costruirla più o meno di quel genere lì in alcuni casi, ma comunque insomma. Allora, questa società prevede una differenziazione biologica fondamentale a partire da quelli che scopano e quelli che non scopano, perché proprio cioè, quelli che hanno il sesso e quelli che non ce l'hanno. Quindi, poi tra la gran parte di quelle che non hanno il sesso, le cosiddette formiche operaie, poi lo stesso vale per le api, per tutti gli insetti sociali di questo tipo, ci sono però hanno poi funzioni diversificatissime. Ad esempio c'è una serie di formiche, in tutte le specie di formiche più o meno, che sono formiche esploratrici, formiche che vanno in giro, cercano dove c'è il cibo, no? Poi devono dirlo alle altre, come fanno per dirlo alle altre? Come fa il cane? Il cane pure parla, insomma, emette suoni, eccetera, eccetera, però quando deve segnalare ad altri cani che in quel momento non ci sono, che lì c'è lui, cosa fa? Piscia, fa la pipì, arriva lì, marker. Cioè, questo territorio è mio, occhio che se vieni qua ci potrebbe capitare che ti arriva, non io, ma il mio amico, il bulldog amico, quello molto più grosso come nei creazioni animatiche, ti fa un mazzo così. Diciamo, gli insetti fanno solo questo, cioè non è che fanno pipì, hanno delle robe molto più specializzate, le formiche, si chiamano feromoni, sono sostanze chimiche che loro emettono e la formica ce l'ha solo quel feromone, ce l'ha soltanto la formica esploratrice, è in grado solo lei di emetterlo. E però la formica operaia normale è in grado di capirlo, quindi arriva, sniffa o con qualche altro organo di senso suo, che più o meno è analogo al nostro odorato, dice so che qua c'è del cibo, e segue la traccia che gli ha lasciato la formica esploratrice. Le api addirittura fanno cose molto più complicate, le api che non hanno questo sistema chimico di comunicazione chimica come le formiche, però hanno anche loro le api esploratrici che vanno in giro, ovviamente cercano i fiori, le robe, eccetera, eccetera. Allora, le api esploratrici trovano i fiori che vanno bene, che hanno del fiuto, hanno dell'odorato, però non hanno un modo di lasciarlo lì, anche perché volano, è difficile nell'aria, no? Allora cosa fanno? Ritornano all'alveare e fanno una stranissima danza, terribilmente complicata, che ci hanno messo, è stata decrittata solo da poco, fanno una serie di danza, fanno un volo a 8. In questo 8, l'asse dell'8, cioè l'asse dei due cerchi che insieme formano l'8, indica la direzione, pensate che sofisticazione, la direzione nella quale le api devono andare, dicono la direzione, cioè il cibo sta, i fiori buoni stanno in quella direzione là, viene fuori del miele di acacia, ragazze mie, da lì che viene buonissimo, andate tutte lì, e vi dà la direzione, e l'ampiezza del volo vi dà più o meno la distanza a cui, quindi è un sistema di comunicazione. Vuol dire che sono intelligenti le api? Come specie sì, singolarmente no, perché si tratta di comportamenti totalmente non attivabili ad libitum, si attivano automaticamente, sono frutto di un istinto assolutamente automatico. Quindi quando l'ape esploratrice ha rilevato la presenza di quei fiori lì, automaticamente non può fare altro, non è che sceglie lei, già, no, però prima di tornare mi faccio un bicchierino, mi faccio una birra al bar, no. Torna direttamente a te perché non può fare altro, non è una scelta, capito, quindi comunicativa. Però ciò nonostante è un sistema comunicativo molto raffinato, quindi, e questo vi ho fatto due esempi, si potrebbero fare a centinaia, decine di migliaia. Beh, allora voi siete portati probabilmente a dire, dice, allora anche le api parlano in qualche modo, è un linguaggio anche questo, no? Che cos'è che differenzia lo schizzetto chimico della formica, la danza dell'ape, l'ululato del lupo, dal linguaggio umano? C'è qualche cosa che li diversifica? Certo, tutti e due sono, in ogni sistema di comunicazione che cosa succede? C'è qualche, l'animale fa una certa attività. Questa attività crea una modificazione nello spazio circostante. Se uno emette un suono, prima non c'era il suono, poi c'è il suono, quindi l'ambiente viene modificato se la formichina piscia un po' di feromone, prima non c'era il feromone, dopo c'è il feromone. Se l'ape danza, prima non c'era la danza, dopodiché c'è la danza. Quindi c'è in qualche maniera un cambiamento. Questo cambiamento vuol dire qualcosa? Sì o no? Sì, sì. Sì, certo, vuol dire qualcosa. Magari l'animale non è consapevole di questo fatto, ma geneticamente è indotto, è praticamente determinato a fare questo comportamento. Quindi se c'è qualcosa che se c'è qualcosa che vuol dire qualcos'altro, vuol dire che c'è qualche cosa che svolge l'azione di significare. Fa un segno, eh? Il feromone dice in quella direzione c'è il cibo, la danza dell'arte dice in questa direzione, con questa retta c'è il cibo, a grosso modo a questa, diciamo, distanza. L'ulato lupo vuol dire sono qua, femmina o maschio, se sei in giro, vieni che scopriamo, oppure c'ho fame, proviamo ad andare a mangiare, eccetera, facciamo delle cose. C'è un significante, e questo significante ovviamente porta con sé un significato. Non che c'è prima, c'è, è qualcosa che compare subito, contemporaneamente, no? L'accoppiata significato e significato è tipica di qualunque strumento di comunicazione. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio. Da questo punto di vista, occhio, non ho detto che sia così in generale, però chiaramente quindi il linguaggio ha una funzione comunicativa, evidentemente. Questa funzione comunicativa si basa sull'accoppiamento di qualche modificazione del mondo circostante, chiamata significato, con l'evocazione di uno stato di cose e di una serie di comportamenti che lo stesso animale che ha emesso il segnale o altri animali potrebbero compiere a qualche scopo di cose di base, trovare cibo, sesso, eccetera. No, va bene? Ci siamo fin qua? Allora è la stessa cosa. Se questo è il linguaggio, se questo fosse il linguaggio, certamente anche le api parlerebbero, anche le formiche parlerebbero, eccetera. Perché noi diciamo che, perché non chiamiamo linguaggio quello delle api e delle formiche, o gli ululati del lupo, o i barriti dell'elefante, o le pisciatine del cane, eccetera, e chiamiamo linguaggio il nostro? Che differenza c'è tra il nostro? Una differenza mi sembra ovvia, cioè il nostro modo di comunicare è molto più complesso, molto più articolato, no? Però pure noi abbiamo dei suoni in fondo, è come il lupo ne avrà un po' meno, però il lupo, forse, diciamo, ce n'ha 20, noi ne abbiamo di più, così. Però vediamo. Però vediamo che magari per ogni significante umano, sì? Ci sono più significati a volte. Va bene, ma questo... Per magari il piscio del cane... Sì, certamente. Allora, c'è una correlazione molto più determinata, molto più ristretta tra significanti e significati in ogni sistema di comunicazione animale, e va bene questo. Ma come fa l'uomo? Adesso va bene, l'uomo invece no. Ma come può l'uomo? Perché se anche l'uomo, se io dicessi, e anche il mio fosse da voi colto come qualcosa che vuol dire una cosa, come probabilmente è per i lupi, il lupo sente, l'ululato del lupo, vuol dire che lì c'è qualcosa, non so che cosa sarà, ci sono altri lupi oppure ci sono nemici, non so, può darsi che magari abbia anche tre o quattro modi diversi di fare l'ululato, un certo modo vuol dire ci siamo noi, un altro modo vuol dire c'è qualche rompicoglioni, un altro modo vuol dire fra un po' piove, che ne so, vuol dire, però, non so, però per dire a questo punto i significati del lupo a che cosa sono limitati, cioè da che cosa sono limitati? Quanti significati potrà comunicare, potrà esprimere un lupo che ulula, che emette suoni? Non vi chiedo un numero preciso, evidentemente, no, ma riferiti a cosa? Le necessità biologiche. Ho capito, ma come fa per esprimerli? Avrà una serie di ululati diversi, no? Quindi, diciamo, supponiamo che abbia 10 modi diversi di ululare, quanti significati diversi potrà esprimere con 10 modi diversi di ululare? 10, giusto? La stessa cosa vale per la formica, per la cosa. Quel feromone è sempre quello, non è che può scegliere, cioè adesso butto secondo me qui là, no, è sempre quello, vuol dire qua c'è il cibo, eh? Un significante, un significato. Un feromone vuol dire qui c'è cibo, basta, non c'è altra possibilità. Eh? Ad ogni componente elementare del sistema comunicativo dell'animale corrisponde un significato. Da noi vanno così le cose? No. Come vanno da noi le cose? Dobbiamo interpretarle. No, prima, più semplice. È che ci sono più significati. Ma perché? Perché? Se io faccio A, che cosa vuol dire? A, vuol dire magari... vuol dire A. Se dico B, cosa vuol dire B? B vuol dire... è una convenzione. Adesso. Nessuna convenzione. Se dico C, cosa vuol dire? Se dico D, cosa vuol dire? Se dico F, cosa vuol dire? Te li faccio tutti e 24, no, 25 che sono i suoni. Allora, i suoni elementari che noi emettiamo con la nostra vocale, che cosa significano? Qual è la risposta a questa domanda? Che cosa significano i 24 suoni della lingua, base della lingua italiana? Sono unità per comporre una parola. Brava, quindi loro di per sé non significano? Niente. Niente. Geniale questa idea. I poveri lupi, tutto quello che, cioè ogni suono che esprimono significa qualche cosa. E quindi hanno una terribile limitazione. Perché decidono, cioè sono quelli, cioè, ne mangio subito quello che c'era a mangiare, mo, non mi conservo niente in frigo. Fanno così, faccio deve dire qualche cosa, attraverso la storia si è costruito un sistema di accoppiamento tra significante e significato. Il significante sta alla base del mattoncino, ok? La nostra scelta qual è? Non far significare in nulla le componenti elementari del significante, le componenti elementari del significante non hanno alcun significato di per sé. Questo, il significato viene attribuito soltanto a che cosa? A delle composizioni, chiamiamole serie, catene, a delle catene fonetiche, a dei fenomeni fonetici complessi, formati, se decidiamo di chiamare fonemi, i diversi suoni che noi riconosciamo, attenzione, che sono la base del nostro linguaggio, diciamo il principio fondamentale di un linguaggio è la creazione del significato in un linguaggio avviene a livello della concatenazione di fonemi e non del singolo fonema. Il singolo fonema di per sé non ha alcun significato. Quindi mentre nell'animale il significante coincide con un singolo fonema, nelle specie animali in generale, nella specie umana il significante coincide con una catena di fonemi. Catena o sequenza di fonemi. Attenzione, guardiamoci bene dal pensare. Allora, dato questione di base, la quantità di fonemi che noi siamo in grado di produrre è equivale alla quantità di suoni che siamo in grado, che il nostro apparato vocale è in grado di produrre? No. La quantità di suoni è sempre molto, molto o comunque maggiore. Prova ne sia il fatto che varie lingue hanno differenti, non totalmente differenti, ci sono un certo nucleo di fonemi che sono uguali in quasi tutte le lingue, ma per esempio noi abbiamo l'italiano, quante vocali ha l'italiano? 21, la vocale 5. Quante? 5. Sicuri? Sì. Sicuri? Io dico un po' di più. La Y noi la leggiamo I tale quale la vocale I, quindi non... Sicuri? Sono 5? A. A, E, I, E, U. A, E, E. Sono due diverse, E, E. Si usa per... Come va? Perché di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di suoni, fonemi, suoni. A, E, E, I, c'è solo quella. O, Quante sono? Quante sono le vocali? Quanti suoni? Il fonema è di... Quanti suoni diversi e quanti suoni vocali ci sono in italiano? Diversi, differenti? Difficile da dire, eh? No, più di 5. Quanti? No, ve li ho detti tutti, quindi dimmi il numero. Perché non è... 7? Oh, cazzo, no, cioè... A è aperta e chiusa, okay, sì, I ho aperta o chiusa, U, e sono 7. Gli inglesi quanti ne hanno? Meno? Ma tu sei pazzo nella testa, vai. Come tutto meno? Hanno molto di più, foneticamente sono più ricchi di noi. Hanno 11 vocali gli inglesi. Hanno gli U, come i francesi, hanno E, I, I, suoni che nell'italiano non ci sono, che noi siamo in grado di riconoscere, ma non fanno parte della nostra lingua. Quindi, attenzione, la scelta dei fonemi, dei differenti suoni, non è una scelta naturale, tutti sono uguali, no, è una scelta anch'essa culturale. L'esempio più chiaro di questa cosa, più palese, dovrebbe essere, sicuramente, se vi togliete dalla testa quel po' di incrostazioni razziste che molti di voi avranno ancora, che tutti noi abbiamo avuto per un periodo, per esempio è l'incapacità di quasi tutti quelli che parlano lingue orientali, dell'estremo oriente, di distinguere tra le consonanti liquide e quelle rotative, tra L e R. A noi questa pare una cosa, ma come cazzo fanno? È impossibile, si distinguono. Non è affatto. Loro ne hanno, ma non ne hanno, il cinese che mi ha detto uno ne ha solo, no, ma non ne ha, ne avrà 12 o 13, ma massimo 15, no? non poi tante, insomma, di più. E comunque gli inglesi sono quelli, fra le lingue indoeuropee, gli inglesi sono quelli che ne hanno di più, perché hanno perché è una lingua che si è formata, perché hai tutto questo disprezzo per l'inglese, tu? Guarda che loro hanno Shakespeare, anche noi non so, sì. Ma guarda, mi sono capitato pure gli allievi anti inglesi, mi capita, la perfida Albione, eh? Va bene. A noi sembra difficile, ma non c'è alcuna base biologica nel fatto di riconoscere o meno una L da una R. Non c'è base biologica. Una lingua è esattamente un sistema di differenze. Le differenze vengono apprese culturalmente, no? Certo, su una base biologica, è ovvio. Quindi ci sono, è una scelta, non scelta fatta da nessuno in maniera fondamentale, ma insomma che si è uno stato di cose che si è creato durante la formazione, durante il periodo di formazione di una lingua, per cui c'è un termine specifico, le opposizioni all'interno di una lingua sono le opposizioni cosiddette pertinenti. Ci sono opposizioni che sono pertinenti, altre che non sono pertinenti. In un certo modo di parlare, nell'italiano, in un italiano dialettale, eccetera, effettivamente la differenza tra E chiusa e aperta, per esempio in certi dialetti del nord, non è pertinente, perché le E sono tutte aperte o tutte chiuse, come nel bergamasco, che non hanno proprio le vocali aperte, i bergamaschi non sanno manco cosa siano. Poi l'apertura in genere è una cosa che gli è strana anche da altri punti di vista, non soltanto linguistico, ma limitiamoci per il momento alle cose linguistiche, e soltanto linguisticamente che è così. Vocali soltanto chiuse, quindi, ma cosa vuol dire? Sono più scemi? No, cioè nelle loro opposizioni pertinenti l'opposizione E non c'è, l'opposizione O non c'è, c'è solo AE, IE, UE, EI, tutte le altre opposizioni possibili, idem fra le consonanti. In tutte le lingue indoeuropee e in una parte delle lingue amerindie, eccetera, eccetera, l'opposizione tra L e R è un'opposizione pertinente. Nelle lingue cinesi, giapponese, coreana, l'opposizione L e R non è pertinente. Quindi l'orecchio del bambino cinese e giapponese da piccolo non le distingue, si abitua a non distinguere. Tu dici L e R, per te sono diverse. Ovviamente sono diversi come suoni, ma attenzione, la mia L è diversa dalla tua L, dalla sua L, dalla sua. Però noi siamo tutti abituati a considerare, facciamo una media di quelle frequenze lì, siamo in grado di riconoscere, questa è una L, hai detto L, hai detto latino, hai detto lago, e si capisce, siccome di più, nelle vocali questo appare molto più chiaro, si rende che ha le A più cose, sono più... ma è come dire, è un addestramento che noi abbiamo avuto da bambini a imparare. Se un bambino viene esposto, voi sapete che si può, che può essere possibile, contemporaneamente a un parlante inglese, a un gruppo di parlanti inglesi, a un gruppo di parlanti cinesi, impara contemporaneamente due lingue, il cinese e l'inglese, ma è in grado di valutare quando l'opposizione LR deve essere considerata pertinente e quando no. Non lo sa dal punto di vista teorico, ma lo sa dal punto di vista pratico. E quindi nella lingua inglese, nella lingua cinese, pronuncerà indifferentemente L o R, perché sa che non c'è nessuna vera differenza tra quella cosa. Comunque, insomma, credo che siamo arrivati a, diciamo, capire adesso, perlomeno di base, che cos'è che rende, che differenzia il linguaggio da tutti gli altri sistemi di comunicazione, e adesso vi dirò che probabilmente rende anche difficile dire, pensare che sia soltanto un sistema di comunicazione. Questo sistema gli dà un nome, il fatto che il significante venga identificato non con i singoli fonemi, ma con le catene fonetiche, con le catene fonematiche, prende il nome di doppia articolazione. Che cosa vuol dire doppia articolazione? Vuol dire che i due livelli sui quali è strutturata la produzione linguistica, una produzione di singoli fonemi, di singoli suoni, e una produzione di catene di suoni, il livello significante viene assegnato solo al livello composto, come dice struttura del termine composizione, va bene, si può usare, certo. Insomma, i linguisti usano il termine catena o il termine, insomma, sequenza, ma è ovvio che è una composizione. Che cosa genera questo? Questo genera il fatto che un sistema comunicativo basato su una identità tra fonema e significante ha un blocco al livello dei significati, perché può avere tanti, soltanto tanti significati quanti diversi fonemi ha, quanti diversi. E a quel punto va anche detto che la componente diciamo di scelta in altri animali è meno forte rispetto a noi, intanto perché non hanno dal punto di vista meccanico la ricchezza e la sofisticazione del nostro sistema di produzione dei suoni, che ci consente comunque di per sé di avere un numero di suoni doppio, anche triplo di quelli che altri mammiferi sono in grado, anche molto vicini a noi, anche quindi anche i primati sono in grado di esprimere, ma secondariamente perché non hanno una spinta a diversificarli, no? Perché se già ne hanno pochi, se si tolgono pure quelli, figuriamoci, insomma. Quindi, mentre quando uno decide, quando si costruisce, quando viene fuori, quando emerge un sistema comunicativo basato su una doppia articolazione, non c'è problema al numero di significati possibile, come è meglio dire, è molto grande o è potenzialmente infinito? Potenzialmente infinito, certo. Potenzialmente infinito, potrebbe essere finito solo se tu assegnassi nel computer, per esempio, non è potenzialmente infinito, perché il computer ha una memoria limitata, il singolo computer e anche il singolo essere umano. Ma una comunità di esseri umani, certo che ha una comunità limitata, però non ha limite alla lunghezza della catena fonetica. Tu puoi fare una catena fonematica lunga quanto vuoi, con il computer non puoi, perché dopo un po', se scrivi un milione di caratteri, ti mangi tutta la memoria del computer. Ma nel modo in cui funzionano gli esseri umani, tu potresti pure costruire una frase con un milione di suoni o anche un milione di parole, certo non ti ricorderesti più dopo, anche perché ci metti qualche anno a dirla, però diciamo potenzialmente è l'infinito, cioè il linguaggio è la prima esperienza reale degli esseri umani con cui l'essere umano può realmente pensare all'infinito in qualche modo. Più che non l'universo ci arriva dopo, perché l'universo sembra una palla, sembra che non è che dici, ah, ma dopo quella stella ce ne sarà un'altra, ma che cazzo, lì bisogna già aver fatto studi di filosofia, di scienze, di robe, cioè il povero. Mentre con il linguaggio uno ci può arrivare comunque, perché sapendo che parlando, cioè con il linguaggio è un meccanismo creativo in cui tu crei cose sempre nuove, non, è molto difficile che un'altra persona anche abbia detto una frase che sia già stata detta, non che è possibile, come ovvio, ma A parte che poi ognuno c'è l'inflessione, le robe, eccetera, insomma, cioè anche soltanto nelle cose astratte. Quindi è una macchina infernale da un certo punto di vista, però ovviamente ricchissima. Oh, e adesso arriviamo all'altro punto. Mi dite che ore sono, ragazzi? 6:51. Grazie. Vabbè. Che è quello per cui già negli animali, ma in particolare nell'uomo, ridurre un sistema linguistico a una pura funzione comunicativa è dubbio. Probabilmente non è così. Questo vale per qualunque attività comunicativa, qualunque, non una, non solo la nostra, anche negli altri animali. Per comunicare qualcosa, cioè per mettere in comune, comunicare questo vuol dire mettere in comune, vuol dire quindi far passare, buttare nello spazio condiviso, comune, che si trova e in cui vagola la parola. Lo scritto è più complicato, perché lo scritto è uno spazio potenzialmente infinito, ma lo spazio della parola parlata è uno spazio limitato, più in là di un tot non si può sentire quello che uno dice, anche se c'è la voce di stentorea, di Aiace o di Golia. Non quella di Caronia, che peggiora sempre di anno in anno, ma insomma, vabbè, un tempo anch'io stavo bella forte la voce. Nel momento in cui io faccio questa cosa, quindi nel momento in cui io butto fuori delle catene fonematiche, delle catene di fonemi, queste catene di fonemi hanno sempre una componente più o meno standardizzata. Le A sono sempre A, e guai se non fosse così, se no voi non potreste riconoscere le A come A, le B come B, le C come C, eccetera. Però contemporaneamente ognuno di noi ha la voce che ha. C'è un insieme di caratteristiche, attenzione, sempre non solo biologiche, insieme biologiche, la forma specifica della mia cavità orale rispetto alla vostra, delle mie corde vocali rispetto alle vostre, eccetera, e insieme culturale, la prosodia, la musica intrinseca a una qualunque produzione di suoni, musica in senso molto lato, non è una musica, però è una musicalità, è una modulare dei suoni, vuol dire metterli insieme in un certo modo, ognuno di noi li mette insieme in modo diverso dagli altri, non solo per il timbro di voce, che è l'insieme delle caratteristiche idiosincratiche della voce di uno rispetto a quella di altri, ma anche per l'accentuazione. Certo, anche lì c'è sempre una accentuazione comune, la lingua italiana ha un'accentuazione particolare, un modo per parlare di costruire le frasi che non è quello inglese, quello che fa riconoscere sempre l'italiano che parla inglese o il francese che parla inglese, e perché? Non perché potremmo anche imparare la pronuncia perfettamente, ma la cosa più difficile è imparare la loro sequenza di accenti alti e bassi nell'inglese, per dire il francese, per dire il tedesco, per dire lingua, adesso non siamo in inglese, no? Se ti arrabbi, ma insomma abbiamo già capito che abbiamo una spregiatrice di Albione qua, ma insomma, qualsiasi altra lingua, cinese, peggio ancora, insomma, le lingue dette toniche, rispetto alle lingue accentuative come le nostre indoeuropee, le lingue dette toniche come l'antico latino, il greco, eccetera, basate o sulla quantità delle sillabe, no? Sillabe brevi e lunghe, che è una cosa che noi abbiamo perso, non sappiamo più, le sillabe sono tutte, durano tutte uguali per noi, mentre in greco e diciamo in latino la metrica addirittura era basata sulla differente lunghezza delle vocali e quindi delle sillabe di cui le vocali facevano parte. Allora, non c'è solo questo, ma c'è una dimensione della comunicazione verbale, che non si trova nello scritto, come ovvio, si trova in maniera, diciamo, diversa, che è idiosincratica, cioè che è tipica dell'idio, della singola persona, che fa parte della individualità. Quindi, automaticamente, ogni volta che c'è una comunicazione, ogni volta che c'è una funzione comunicativa, ogni volta che si comunica qualcosa, non si può fare a meno anche di esprimere qualche altra cosa. Quindi c'è una dimensione comunicativa e insieme una dimensione espressiva. Comunicazione ed espressione sono indisgiungibili. Comunicazione vuol dire mettere in comune qualche cosa, quindi fare uscire qualche cosa fuori di me che parlo, e renderla disponibile per altri. questa è la comunicazione. Se non fosse in comune, no, se no non si sapeva. Se no non si sa perché si andrà in comune, giusto? Invece è in comune. L'espressione è qualcosa di lievemente diverso. Exprimere, in latino è premere, premere, ex vuol dire fuori. Quindi premere, esprimere, premere, premere fuori qualcosa. Quindi anche nell'esprimere in qualche maniera esce qualcosa fuori. Però quello che si esprime non è direttamente dedicato alla comunicazione. Uno lo esprime, ma è qualche cosa, è una specie di marchio, eh? L'espressione è un marchio che uno mette. È bene che gli altri lo sappiano, però non, di per sé non vuol dire nulla, tranne in casi particolari, certo, quando il grado di espressione supera un certo, diciamo, livello, è chiaro che altera anche il significato, Se io dico, chiudi quella porta, oppure, chiudi quella porta, Le parole erano uguali, i suoni erano uguali, ma l'espressione era molto diversa. In questo caso l'espressione indicava anche, nel primo caso, una gentile richiesta, nel secondo caso un comando imperativo, cioè rotti i coglioni, chiudi quella porta. E quindi una, no, quindi c'è, però in generale, a parte ho fatto due casi estremi adesso, ma in tanti altri casi io ho un'espressione particolare, ormai è due volte che mi sento parlare, più vi romperete i coglioni per tutta, avrete fin troppo tempo di prova, insomma, diciamo, capite che ho un livello di espressività che è mio, è particolare mio, che non ce l'hanno gli altri, voi, ognuno di voi ha il suo, che non ha, che sono gli altri non ha, che non fa parte di per sé del livello di comunicazione. Però dice qualcosa, esprime qualcosa, comunica, si può anche dire, ma non comunica qualcosa di... il tipo di comunicazione che porta con sé l'espressione non è deliberato da parte del soggetto che parla, non è cosciente. Certo, io posso scegliere di parlare con un tono piuttosto che con un... che con un altro, eccetera, in qualche maniera una decisione di partenza l'ho già presa. Una volta che l'ho presa, però, non è che decido le singole parole, decido le singole modalità espressive, come decido le singole parole o le singole frasi in relazione a quello che vi devo dire. Mi esce per una serie di altri, come dire, motivi, e indica, allora, questa cosa non pensiamo che sia simile, che sia tipica degli esseri umani. Chiunque di voi abbia avuto un cane o un gatto sa bene che anche i cani e i gatti hanno una... loro sono animali un po' particolari, perché non sono propriamente degli animali, insomma, sono delle specie addomesticate da tempo diverso, da un bue, da un cavallo. I cavalli forse sono l'unica specie animale che ha qualcosa di simile ai cani e gatti, con cui c'è un rapporto anche di tipo affettivo intenso, che può essere intenso tra l'uomo e l'animale, ma insomma, diciamo, sono gli animali selvatici, eccetera. No, non è vero, anche loro, c'è anche lì un livello espressivo che spesso noi non siamo in grado di cogliere, ma i ruggiti, i barriti dell'elefante, si possono chiamare ruggiti, come si chiameranno? I bramiti degli orsi, mi scappava il nome, i bramiti degli orsi, i ruggiti del leone, saranno tutti diversi da un leone all'altro, cioè ci sarà anche lì, c'è anche lì, sì, sicuramente dovunque c'è un organismo biologico al lavoro di una certa complessità, anche il lombrico, anche il modo che ha il lombrico di contorcersi probabilmente ha una minima, ma c'è una funzione, virgolette, espressiva, cioè una componente idiosincratica, individualizzata, particolare di quell'individuo invece che della specie in generale, c'è una grammatica generale di produzione del movimento, del suono, eccetera, della specie, c'è un livello individuale. Nel linguaggio umano, essendo una macchina così complicata come è, per questa semplicissima decisione di base di non assegnare significato ai singoli componenti sonori, ma di assegnare significato soltanto alle diciamo, catene sonore, ci obbliga a fare delle catene più o meno lunghe, anche chi parla poco, anche chi non è affetto da logorrea come me, in qualche modo quando deve dire una roba, almeno il numero minimo di parole necessarie deve dirla, e già in quello si tradisce, si tradisce anche la persona più burbera, più quella più chiusa, quella più, anche lui c'ha una un livello espressivo, no? C'è un livello espressivo, quindi che nel linguaggio umano c'è un'esplosione non soltanto comunicativa, c'è anche una esplosione espressiva. Ovviamente l'esplosione comunicativa ed espressiva, adesso non scrivo più perché tra un po' mi scuso con quelli che non sopportano l'unghia o la lacca, ma è l'unica cosa che scrivo. La doppia articolazione ha una conseguenza di tipo tanico che è quella che possiamo chiamare l'esplosione combinatoria. L'esplosione combinatoria. Perché dico l'esplosione combinatoria? Perché, ripeto, con un piccolo numero di componenti elementari, una trentina, grosso modo, noi siamo in grado di... è un'esplosione, perché li combino in modi tali e costruire un linguaggio vuol dire non mica ammettere come significative tutte le catene, anzi è un numero molto molto limitato fra le catene sonore, fra le catene foniche, quelle che possono avere significato, perché sono le regole della grammatica, ogni lingua, i singolari, i plurali, i verbi declinati, i tempi, i modi, eccetera, la combinazione delle parole nelle frasi. Si possono costruire sequenze di suoni che non sono parole e sequenze di parole che non sono frasi in numero molto maggiore delle sequenze di suoni che sono parole e delle sequenze di parole che sono frasi. Eppure, ciò nonostante, un linguaggio è sempre un sistema che, essendo basato sulla doppia articolazione, realizza un'esplosione combinatoria, cioè realizza la possibilità di produrre significati come una bomba a frammentazione, cioè scoppia e produce una quantità di significati sempre nuova, sempre maggiore e, ripeto, tendenzialmente senza limiti, a meno che noi non decidiamo di assegnare un tetto massimo di tempo o di numero di fonemi alla nostra produzione. Ma allora, per esempio, i signori James Joyce, David Foster Wallace, tutte le persone che hanno scritto romanzi di più di 1000 pagine, tutte le persone che hanno fatto film di più di 7 ore, e ce n'è, come tutti sapete, Heimat, o un sacco di altri, insomma, cioè tutti questi che dobbiamo fare lì. No, uno dice, faccio un film di 15 ore, poi non trovo nessuno che lo vede, cazzi miei. Infatti, però lo fa, cioè si può fare, insomma, no? Basta, cioè, ci sarà soltanto una cosa, come dire, materiale di. Allora, spero oggi di aver chiarito bene in che senso il linguaggio si avvicina ad altri sistemi di comunicazione di altre specie animali e in che senso se ne distacca. In che senso favorisce, per una semplicissima legge di base, quella della doppia articolazione, l'esplosione combinatoria sia sul piano della comunicazione che su quello dell'espressione, che poi è difficile tenere così sparati rigorosamente, ma insomma adesso tanto per insomma. Vi dico l'ultima cosa, che poi è quella su cui costruiremo gran parte del corso. Di tutte queste cose che abbiamo detto, voi vedete che il linguaggio è un sistema fatto in questo modo, è costruito, certo può dire un sacco di cose, però... parlare non è come disegnare, perché? Per una serie di motivi, insomma, perché parlando bisogna tenere conto del fatto che abbiamo degli elementi costitutivi al di sotto dei quali non possiamo andare. Sotto il suono non ci possiamo andare, il suono A non è analizzabile in qualche altro suono più semplice che messo insieme fa A, almeno noi non lo sappiamo come fare, il suono B, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, c'è una sorta di, è un po' come fosse un mondo atomico, ma non con gli atomi, perché negli atomi veri poi hanno scoperto non solo che l'atomo non era indivisibile, ma che neanche i componenti, neanche le particelle più piccole, quindi ormai adesso ci sono i quark, ma mica detto che non trovino che poi anche i quark, forse se ci sono le stringhe, dietro ogni quark c'è una stringa diversa, ma quindi non è proprio così. È un mondo atomico, ma atomico bloccato. C'è una parola che viene dalla matematica, un sistema linguistico è un sistema discreto. I sistemi discreti sono quei sistemi nei quali c'è un certo numero di elementi componenti e al di sotto dei che sono irriducibili, al di sotto dei quali non si può andare. Perché la matematica è fatta così, perché la matematica è basata sull'aritmetica e l'aritmetica è basata sui numeri naturali. Discreto, il termine è discreto, che non vuol dire che è uno che si fa che ci suoni, vuol dire discreto, vuol dire è l'opposto di continuo, l'opposto di continuo. Un sistema discreto è un sistema formato di elementi distinti fra loro e irriducibili l'uno all'altro, esattamente come i numeri naturali della sequenza naturale, 0, 1, 2, 3, 3, 0. Poi posso costruire degli altri sistemi di numeri, però se mi limito ai numeri naturali, il sistema dei numeri naturali è un sistema discreto, c'è lo 0, c'è l'1, il 2, il 3, tra lo 0 e l'1 non c'è nessun altro numero naturale, tra l'1 e il 2 neanche, tra il 2 e il 3 neanche, e idem con i suoni, sistema discreto. Se ci pensate bene, il sistema delle immagini non è un sistema discreto, è un sistema, l'opposto di discreto è continuo. Un sistema continuo è un sistema in cui non è impossibile, ma non è, virgolette, naturale, non è automatico, trovare le singole componenti minime, o forse non esistono proprio delle componenti minime. Dentro una linea esiste una componente minima? Sì, esiste il punto, cioè il concetto di punto euclideo, ma è un'astrazione il punto, mentre la lettera non è il suono non è un'astrazione, il suono A non è un'astrazione, è A. E i nostri orecchi sono in grado di distinguere A da E, da I, da O, da U, da E, da E, da O, da O, mentre nei sistemi delle immagini questo non accade. Quindi questa è il primo grande problema che ci porta a, perché poi insomma adesso il succo è che si è tentato di fatto sull'analisi del linguaggio, sono nate una serie di teorie, di strumenti, di indagine che hanno preso a un certo punto il nome con questo signore di semiotica, cioè un sistema generale di segni, lo studio di un sistema generale di segni che Saussure ha fondato per la linguistica, ma che poi si è tentato di espandere, di allargare a tanti altri sistemi, ma un sistema semiotico basato, che si basi sull'esperienza e sull'esistenza di un sistema discreto di segni, è una cosa ben diversa da quello da un sistema semiotico, se si può fare, se è possibile fare una semiotica, di un sistema continuo, e questo è il problema di tutta la cosiddetta semiotica dell'immagine, che si è tentato di fare, ma che obiettivamente, cioè non che sia possibile fare una linea, io decido questo pezzetto, quell'altro pezzetto, eccetera, ma ditemi voi come si fa a dire, certo che ci sono degli elementi componenti dentro tutta la tradizione figurativa dei quadri, si può riconoscere le persone, i personaggi, lo sfondo, i primi piani, eccetera, ma è una situazione molto, molto, molto più complicata, non è così naturale, apparentemente naturale, semplice e tutto sommato anche banale come quella del linguaggio, che dice vabbè, ma lì almeno io la base ce l'ho, la base è quella, ci sono i suoni, ci sono i singoli fonemi, le opposizioni distintive, so in quale modo un suono si oppone agli altri, e per questo posso avere, come dire, ho una sicurezza nella semiotica del linguaggio naturale, che nella semiotica, in una qualunque semiotica di un sistema discreto, prendete il sistema dei segnali stradali, ancora più semplice, ancora più stupido, perché non c'è neanche la doppia articolazione, si può fare una bellissima semiotica, infatti hanno fatto semiotiche meravigliose sui segnali stradali, però anche un po' che ci frega noi, insomma, va bene. È costruito una bella semiotica di segnali stradali, sono 25 segnali, quanti sono? 15, 14, 18, non so, io non sono un guido, quindi non posso sapere quanti sono, non ho mai saputo in vita mia, saranno quelli che sono, però ho capito, cioè, non li posso combinare, se li combino vogliono dire quello più quello più quello, non cambia mai nulla, insomma, non è come il linguaggio, ma ancora più complicato è fare una semiotica della pittura, cioè, come fa la semiotica? Cioè, eppure c'è un sacco di gente che ci ha comunque provato. Ed è indubbio che da un punto di vista storico poi i sistemi linguistici hanno interagito, i sistemi fonetici, insomma, di parole hanno interagito con i sistemi di immagini, ovvio, se no non saremmo qui a parlarne, non ci sarebbero i computer, non ci sarebbero tutte queste cose qua. Però vi metto in guardia, cioè è un insieme di problemi arduo, complicato, perché un sistema discreto, un sistema continuo, per farli comunicare, non è che non possono comunicare, non possono mettersi insieme, ma bisogna essere cauti da un punto di vista pratico, da un punto di vista concettuale, da un sacco di punti di vista. Naturalmente queste sono tutte cose che l'ingegnere informatico non ve le può dire, perché lui si abitua che usa le sue immagini, lui ha un insieme di base. I sistemi, per certi versi, non vado oltre per questa volta, per certi versi l'avvento del computer sembrerebbe aver segnato una sorta di predominio dei sistemi linguistici, dei sistemi discreti. Il computer è un sistema discretissimo, più discreto di lui si muore. Sono le celette di memoria, 0-1, 0-1, non ci sono cristi. Attraverso questa, e quindi altro che esplosione combinatoria. Il computer fa un'esplosione combinatoria a livello linguistico, a livello di suoni, a livello di lettere, a livello di immagini, qualsiasi produzione. E sempre la cosa, questa è la cosa più pericolosa del computer, secondo me, pericolosa, insomma, perché concettualmente ci porterebbe a credere che davvero tutta la natura una unità di fondo che sarebbe l'informazione, cioè il bit, eccetera, eccetera. E voi sapete che molta gente è entusiasta di questa cosa, e sono tutti gasati, bravo, tutti contenti, perché dicono che in realtà anche lì probabilmente bisogna darsi due piedi di piombo, perché non è detto che automaticamente una creazione della mente umana così importante, così utile, così fondamentale come è il computer, però automaticamente voglio dire che rispecchia lo stato del mondo. Ci sono alcuni scienziati, adesso io devo scrivere una cosa per il prossimo anno, un breve saggio, ma insomma una cosa contro questa tesi, una tesi che hanno chiamato dell'universo computazionale, cioè l'universo sarebbe un computer, secondo l'universo, capito? Cioè tutto l'universo funzionerebbe come un computer. Aia. Aia, brava, aia, proprio aia, allucinante. No, anche perché poi non so. È una cosa che riduce anche il mondo, cioè la materia stessa ha più complessità e più insomma possibilità di combinazione interna che non un computer. Cioè il computer può essere utile come un modello, ma è un modello, non è la realtà, non può essere la realtà. L'idea che l'universo, invece questi sono convinti che l'universo è computazionale, l'universo è un computer. L'universo è un insieme di processi descrivibili con degli algoritmi. Va bene, direi che per oggi vi ho tormentato a sufficienza.